forgive you now. We are the stars that light up the night. We are the stars that light up the night. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco delle Roy Plone Witch dal titolo Once Upon a Time. Come si chiamava questa canzone? La canzone era Selenite. Quali saranno ora le prossime mosse della band per il futuro? Allora, per adesso continuiamo con la nostra attività live, appena uscito il singolo Rescue con anche il video, invece è in fase di produzione il secondo video, spero che presto lo potrete vedere insomma sui vari canali internet, sulle TV musicali. E poi successivamente, fine estate, penso cominceremo le preproduzioni del nuovo disco, perché un po' di materiale in archivio ce l'abbiamo già, quindi ci diamo una mossa, ecco. Siamo al quinto brano, cosa scegli di far ascoltare? Il prossimo brano si chiama I Still Fancy You. Il tempo come sempre scorre e noi siamo quasi in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Un grazie a Giulio dell'Eroe Pinovice per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web e di email per info sul vostro disco e un calendario di live già definiti. Allora, innanzitutto grazie a te Jeanluc, perché è impossibile non ringraziarti per tutto lo spazio che dai alle band underground. Allora, come date, potete andare su myspace.com/roipnolwitch, www.roipnolwitch.com, poi Facebook, Twitter, così. Vi ricordo, il 22 aprile saremo al Corallo Club di Scandiano in provincia di Reggio Emilia insieme alle Curi e Sic Tamburo per una serata rock with mascara. Poi andremo un po' anche al sud, a Bari, Lecce, così. Poi torniamo su invece dalle nostre parti, siamo proprio in patria, non suoniamo da un bel po' di tempo, a Carpi in provincia di Modena, che è la nostra città, Mattatoio Club. Poi saremo il 13 maggio a Milano al Tamburin, il 14 maggio alla Notte Bianca di Modena e insomma poi le date proseguono anche luglio, agosto, insomma è inutile che ve le stia a dire, così chi ha interesse può andare sul nostro sito e scoprirne qualcuna di nuova. E niente, quindi insomma per tutte le informazioni disco, rimaniamo a disposizione. Il disco è in vendita su iTunes e tutti i canali musicali e dal 15 aprile, esattamente oggi, è proprio distribuito nei negozi musicali, quindi andate e check it out, Roy Nolwich. E altrimenti se no li trovate comunque nei vostri live. Certo, ovviamente nei nostri live, il nostro banchettino con il nostro merchandising è sempre disponibile per chi volesse acquistare il disco Once Upon a Time. Brano per chiudere in bellezza questa serata? Allora dai, andiamo con del vero rock and roll, canzone dedicata ai diritti delle donne, si chiama Women's Rights e noi siamo le Roy Nolwich. Gianluca e Giulia delle Rock and Witch vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospiti gli ex, storica formazione hard rock veronese, che ci presenterà il loro nuovo disco intitolato Day. Ciao! Ciao!